Dobbiamo creare una fiducia reciproca tra le strutture appunto di produzione dei prodotti medicinali che possono contenere delle sostanze di doppaggio, quindi l'industria farmaceutica fondamentalmente, e coloro che invece hanno il compito di osservare e regolare attraverso i testing, attraverso le agenzie nazionali di antidoping, l'utilizzazione di queste sostanze. L'idea che è stata suggerita durante il convegno è che si possa, attraverso proprio il Consiglio d'Europa, per quanto riguarda la nostra situazione in quanto europei, arrivare a un pilotaggio, costituire una specie di comitato di pilotaggio che permetterebbe di favorire questa alleanza strategica tra l'industria farmaceutica e le autorità governative che devono sorvegliare la situazione, e a partire da questo mettere ancora meglio in atto i dispositivi specifici della nostra convenzione antidoping e rafforzare quindi l'operato delle agenzie nazionali antidopaggio.